Il bene di tutti, parliamone. Rubrica settimanale a cura della pastorale sociale e del lavoro della Diocesi di Padova, a cura di Andrea Canton. Bentornati carissimi ascoltatori, sono Andrea Cantone e questa è la sesta puntata de Il bene di tutti, parliamone, una rubrica pensata dall'Ufficio per la Pastorale Sociale del Lavoro della Diocesi di Padova per analizzare le ultime novità nei campi dell'economia, della politica e della vita sociale, alla luce degli insegnamenti della dottrina sociale della Chiesa. Negli ultimi anni si è parlato tantissimo di federalismo. L'idea infatti che le decisioni possano venir prese a pochi chilometri da casa, nel vicino municipio o nella sede della regione, piuttosto che nei polverosi palazzi della politica di Roma, aveva entusiasmato molti, sia a destra ma anche a sinistra. Eppure, nell'ultimo periodo, gli enti locali, in primis i comuni, più che aumentare le loro competenze, fanno fatica a mantenere le loro vecchie prerogative. L'uomo nero si chiama patto di stabilità. Assunto dai vari paesi in occasione dell'entrata nell'euro, è stato rivisto recentemente in senso restrittivo. A farne le spese in particolare i comuni, costretti non solo, come è giusto, a raggiungere ogni anno il pareggio di bilancio, ma ad accumulare fortune senza poterle spendere, a fronte di un continuo taglio dei trasferimenti dall'alto. Incapaci di far quadrare i conti, i comuni sono costretti il più delle volte a tagliare tutto il tagliabile, a partire, purtroppo, dal sociale. Ne parleremo fra pochissimo con Enrico Rinuncini, giovane sindaco di Ponte San Nicolò, con alle spalle un lungo impegno nell'associazionismo e nel volontariato. Prima però leggiamo un brano tratto dal Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa, uscito nel 2004, che parla proprio degli enti locali, all'interno del più ampio discorso legato alla sussidiarietà. In questo brano, che descrive ed esalta le prerogative degli enti più piccoli, i comuni, le associazioni locali o le piccole realtà, vengono visti i rapporti fra questi piccoli enti e gli enti centrali, descrivendo anche le cose positive che vengono da un maggior potere di questi enti più piccoli. Dal Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa. In base a tale principio, tutte le società di ordine superiore devono porsi in atteggiamento di aiuto, quindi di sostegno, promozione e sviluppo, rispetto alle minori. In tal modo, i corpi sociali intermedi possono adeguatamente svolgere le funzioni che loro competono, senza doverle cedere ingiustamente ad altre aggregazioni sociali di livello superiore, delle quali finirebbero per essere assorbiti e sostituiti e per vedersi negata, alla fine, dignità propria e spazio vitale. Alla sussidiarietà, intesa in senso positivo come aiuto economico, istituzionale, legislativo, offerto alle entità sociali più piccole, corrisponde una serie di implicazioni in negativo che impongono allo Stato di astenersi da quanto restringerebbe, di fatto, lo spazio vitale delle cellule minori ed essenziali della società. La loro iniziativa, libertà e responsabilità non devono essere soppiantate. Eccoci di nuovo insieme e con noi in collegamento telefonico Enrico Rinuncini, sindaco di Ponte San Nicolò. Grazie per essere qui con noi. Grazie a voi per avermi chiamato, buongiorno a tutti. In questo brano abbiamo sentito parlare delle cellule minori ed essenziali della società, che sono anche i comuni. Ma qual è il loro ruolo nella promozione e nello sviluppo del bene comune? Beh, sicuramente il ruolo dei comuni per la promozione del bene comune è un ruolo privilegiato e indispensabile, perché il comune è di fatto una grande famiglia. E nella famiglia ci sono un po' tutti i ruoli della famiglia. C'è il papà forte che porta a casa così il sostegno per la famiglia, c'è la mamma, ma poi ci sono anche i soggetti più deboli. Ci sono i figli, ci sono i nipoti, ci sono i nonni, ci sono gli invalidi, ci sono i disabili. e quindi è compito di questa grande famiglia quello di tutelare soprattutto le fasce più deboli. Ovviamente questo in collaborazione con una rete importante di cui l'amministrazione deve essere proprio il collante, la rete di vari soggetti, che sono le associazioni, che sono le parrocchie, che sono l'amministrazione stessa e che sono le società sportive. Tutti insieme possiamo essere una rete importante per promuovere il bene comune e per difendere i soggetti più deboli di questa grande famiglia che è la comunità locale. Quindi credo che proprio per il raggiungimento del bene comune uno dei soggetti più importanti sia proprio il comune e quindi di conseguenza ruolo importante lo abbiano gli amministratori locali. Eppure in questi ultimi anni gli enti locali, in particolare i comuni, sembrano essere entrati in una profonda crisi. Un tempo un sindaco poteva permettersi di legare il suo mandato all'avvio di una qualche opera pubblica importante, una strada, una biblioteca, una piscina, un qualcosa, ma ora con la congiuntura economica, ma soprattutto con i lacci del patto di stabilità, questo sembra essere impossibile. Come ci si sente? Sicuramente la sensazione è una forte sensazione di frustrazione. E questo perché? Perché innanzitutto durante la campagna elettorale ci si è impegnati di fronte ai cittadini ad arrivare a dei risultati importanti, ma non lo si è fatto per fare le solite promesse elettorali, ma perché si aveva consapevolezza che le risorse erano sufficienti ad andare incontro alle esigenze locali. Parlo per la mia esperienza, non abbiamo mai promesso nulla di eccezionale, non abbiamo promesso teatri, non abbiamo promesso piscine, non abbiamo promesso cinema, avevamo promesso le manutenzioni ordinarie di un territorio insomma medio di 13.000 abitanti con le problematiche legate all'illuminazione pubblica, legate alle buche nei marciapiedi, legate ai problemi di viabilità, alla cartellonistica, soprattutto alla messa in sicurezza di punti importanti quali le scuole. Perché ci troviamo tra l'incudine e il martello, cioè il sindaco è responsabile dei suoi cittadini, in particolare nelle scuole, dei bambini che siano in sicurezza, però dall'altra parte ecco la difficoltà, l'impossibilità di avere a disposizione le risorse per fare questi interventi e quindi anche in qualche modo con una appunto questa difficoltà di avere una risposta corretta tra il fare l'intervento però non poter utilizzare le risorse. Grazie Rinuncini, ci fermiamo un attimo e torniamo fra pochissimo. Il bene di tutti, parliamone. Rubrica settimanale a cura della pastorale sociale e del lavoro della Diocesi di Padova. Bentornati alla sesta puntata del Bene di Tutti Parliamone, siamo con Enrico Rinuncini, sindaco di Ponte San Nicolò e stiamo affrontando il tema penoso della crisi degli enti locali, soprattutto a livello economico. Abbiamo appena descritto la situazione di stallo degli enti locali, ma come la si può superare? Cosa sta facendo, cosa può fare effettivamente un sindaco di fronte ad una situazione come questa? Ma quello che possiamo fare in questo momento è rendere consapevoli i nostri cittadini della difficile situazione, perché il fatto che i cittadini abbiano consapevolezza della difficile situazione economica, che poi è abbastanza evidente anche accendendo la televisione o appunto ascoltando la radio, leggendo un qualsiasi quotidiano, mette in evidenza che le amministrazioni locali nello specifico hanno per esempio delle risorse loro proprie e queste non le possono spendere a causa del patto di stabilità. E cosa si potrebbe fare? Si potrebbe semplicemente liberare per esempio gli avanzi di amministrazione, quindi i soldi che in queste amministrazioni ci sono, per poter fare opere pubbliche. Magari obbligando i comuni a non fare opere grandiose, ma a fare piccole opere di manutenzione con delle cifre anche abbastanza modeste, quindi massimo appalti da 50.000 euro, questo consentirebbe anche di riavviare l'economia locale, perché con appalti così piccoli parteciperebbero aziende del territorio e quindi si creerebbe un circolo virtuoso all'interno del territorio regionale stesso. E questa sarebbe una delle, si chiama Small Business Act, utilizzata anche da Obama nei suoi programmi, ed è molto semplice ed è una cosa che si può effettuare fin da subito, basterebbe un decreto legge che ci consentisse di utilizzare le nostre risorse. Ci sembra di essere molto lontani da quei principi ispiratori del federalismo che da 15-10 anni vengono ripetuti in maniera molto costante. Ma qual è la sua idea di federalismo? Secondo lei potrebbe essere utile per sbloccare questa situazione? Beh, il federalismo potrebbe essere una delle ricette. Credo che qui però chi ha predicato bene fino ad oggi abbia razzolato male, perché sarebbe stato sufficiente in questi ultimi 20 anni, da quando poi si parla fermamente di questo principio, aver messo in pratica qualcosa. E invece in passato l'unica cosa fatta sono state delle azioni antifederaliste. Il fatto stesso di aver tolto l'unica tassa, tra virgolette, che restava nel territorio, che era la famosa e odiata ICI, è stato un atto di fatto antifederalista, quindi condiviso a livello economico, perché è giusto che purtroppo chi abbia un'abitazione principale non debba pagare l'ICI, ma era l'unica tassa che rimaneva in comune. Oggi l'IMU troverà addirittura al danno anche la beffa, perché oltre al fatto di mettere una tassa sull'abitazione, poi questa tassa comunque non rimarrà ai comuni e quindi di fatto i sindaci si troveranno ad essere esattori conto terzi, però senza avere nessun beneficio per la propria comunità. Quindi secondo lei quali sarebbero le ricette primarie per sbloccare questa situazione? Ma una ricetta primaria è quella di rendere autonome le amministrazioni virtuose. Parlo per il mio comune. Noi non abbiamo più debiti, abbiamo pagato tutti i mutui che avevamo. Non abbiamo debiti con alcuna azienda locale per appalti. Diamo gli appalti solo quando abbiamo i soldi in cassa. Bene, queste amministrazioni siano libere di usare le proprie risorse, perché nel momento in cui hanno la totale autonomia e non chiedono niente dallo Stato, a questo punto rendiamole libere di essere autonome anche da un punto di vista fiscale. Siccome è autonome da un punto di vista anche di azione imprenditoriale, cioè di fare opere pubbliche, questo consentirebbe, come dicevo prima, di riavviare un circolo virtuoso, quindi noi possiamo rispendere le risorse pubbliche dei nostri concittadini, dare a loro dei servizi migliori, non solo in opere pubbliche ma anche in servizi per le persone svantaggiate, per i disabili, per gli anziani, per le giovani coppie e per andare incontro appunto al famoso welfare, al benessere della nostra comunità. E questo ovviamente avrebbe beneficio, perché darebbe lavoro alle cooperative, alle aziende, agli imprenditori. Infatti c'è ormai una buona collaborazione anche tra associazioni nazionale Comuni d'Italia, ANCI, e ANCI, Associazione Nazionale Costruttori Edili, perché ormai gli obiettivi sono i medesimi e quindi insieme stiamo facendo squadra per cercare di ottenere maggiore flessibilità ed elasticità ed autonomia a queste amministrazioni virtuose. Di pari, importantissimo, occorre assolutamente essere durissimi con le amministrazioni che sono in passivo o che non applicano principi di buona amministrazione. Qui secondo me automaticamente il prefetto deve prendere questo sindaco e dovrebbe esserci una norma che prende questo sindaco e lo fa dimettere. Questa dovrebbero essere delle scelte molto dure e drastiche, e sarebbero, parlo del sindaco, ma per presidente di regione, per presidente di provincia o perché no in qualche ministero o qualche ente, che in questo momento sono solo che delle spese inutili per la nostra comunità e per la nostra nazione. Rinuncini, le faccio una domanda personale. Da sindaco cristiano, come definirebbe la politica? E come definirebbe anche la politica dopo aver gestito quell'emergenza nel novembre del 2010 dell'alluvione che ha distrutto in qualche maniera una frazione del suo comune? Ma da cristiano cerco di mettere in pratica i principi che mi sono stati insegnati, e credo che la politica, credo come la definisse Paolo VI, è la più alta forma di carità. Ovviamente non carità come la intendiamo nel senso di elemosina, ma carità come amore e amore per il prossimo. E quindi sicuramente il servizio alla propria comunità. Questo dovrebbe essere il pilastro principale della politica. E nel mio territorio ho avuto la sfortuna, ma quindi poi è diventata anche una fortuna, di vivere pienamente il senso della politica, perché siamo stati messi alla prova purtroppo appunto con l'alluvione del 2010. E lì abbiamo vissuto la politica proprio sporcandoci le mani fisicamente nel fango, aiutando le famiglie a uscire da quei giorni di fango, ma poi anche a rimboccarsi le maniche e a migliorare la propria condizione e ritornare alla normalità. E quindi la politica al servizio si è aggiunta la solidarietà che la comunità, ognuno per il proprio ruolo, ha messo in pratica, perché anche nella quotidianità, non solo quando si ha un ruolo politico o di amministrazione, ma quando si fanno delle scelte quotidiane si fa politica, cioè si fanno delle scelte per la propria comunità. E quindi l'alluvione sicuramente ha messo alla prova la mia comunità, e anche le frazioni più che non avevano avuto grandi danni hanno potuto provare anche l'esperienza di aiutare chi invece si trovava in sofferenza e in difficoltà. Quindi è un regalo che mi è stato fatto, quello di poter amministrare la mia comunità, perché puoi cercare di aiutare gli altri, e quindi davvero questo credo sia il senso grande della politica, quella con la P maiuscola. Lasciamo da stare magari la politica con la P minuscola. E il compito degli amministratori, il compito dei politici è comunque quello di dare speranza e dare strumenti affinché la speranza, i sogni e i desideri poi possano essere realizzati. Grazie infinite, Rinuncini, per essere stato con noi. E grazie del tempo che ci ha concesso e di queste riflessioni che abbiamo fatto assieme. Grazie a voi, grazie e buona giornata. Prima di salutarci, carissimi ascoltatori, ricordiamo l'appuntamento di sabato 25 febbraio, dalle 15.30 alle 18, presso la Facoltà Teologica del Triveneto in via del Seminario. Si terrà un incontro dal titolo Per una nuova economia civile tra finanza, politica e società, con Stefano Zamagni e Lorenzo Biagi. È tutto, cari ascoltatori. Ci troveremo nuovamente martedì prossimo, sempre alle 18.25, sulle frequenze di Blu Radio Veneto. Potete riascoltarci grazie al podcast sul nostro sito, oppure mandarci una mail a redazione@bluradioveneto.it. Da Andrea Cantone è tutto. Il bene di tutti, parliamone. Rubrica settimanale a cura della Pastorale Sociale e del Lavoro della Diocesi di Padova.